Giallo e nero di Daniele Biacchessi. 237 giorni di prigionia, 8 mesi di cronaca drammatica. Praticamente in diretta televisiva. 8 mesi segnati da due macabri avvertimenti, un tragico blitz fallito, poi la liberazione, dopo il pagamento di un riscatto superiore a 5 miliardi di vecchie lire. Il sequestro di Giuseppe Soffiantini è stato uno dei rapimenti più mediatici della storia dei sequestri di persona in Italia. Un sequestro pianificato mesi prima, studiato alla perfezione, secondo il copione consolidato dell'anonima sarta. La ricostruzione di Maria Luisa Pezzali. Giuseppe Soffiantini viene sequestrato la sera del 17 giugno 1997. Tre uomini entrano nella sua villa di Manervio, nel Bresciano. L'uomo, 62 anni, imprenditore tessile alla guida di un'azienda con 200 dipendenti, un fatturato da 90 miliardi di lire, è sul divano con la moglie e sta guardando in TV il concerto dei tre tenori. I banditi, volto coperto e pistola in pugno, chiedono insistentemente del figlio Paolo, l'ultimo genito, militare di leva, a casa in licenza. È lui l'obiettivo, ma è uscito, così ripiegano sul padre. La donna viene legata e imbavagliata in cantina, la troverà così la mattina dopo il giardiniere. Come vuole la legge antisequestri, la procura di Brescia blocca subito i beni della famiglia, la moglie Adele e i tre figli, Carlo, Giordano e Paolo. La richiesta iniziale di riscatto è di 20 miliardi di lire, poi modificata in 11 da pagare in dollari. Per inviare i propri messaggi, i rapitori contattano amici di famiglia, il parroco, esigono risposte tramite inserzioni in codici sui quotidiani o attraverso comunicati stampa come questo, letto dal figlio primogenito Carlo a poche settimane dal sequestro. Sono passate oltre 3 settimane dal precedente appello. Anche ieri sera abbiamo detto una preghiera per nostro padre, augurandoci che fosse ancora vivo. Ribadiamo che vogliamo ottenere con tutte le nostre forze la liberazione di nostro padre, nonostante il blocco dei beni, purché ci sia la certezza che egli è ancora in vita e che verrà subito liberato. Non fate del male a nostro padre, che è anziano e malato. Anche una sola ferita potrebbe provocargli un'emorragia mortale. Speriamo vivamente di riabbracciare al più presto nostro padre e siamo in angosciosa attesa di sue notizie. Passano i mesi, la famiglia è in ansia per l'uomo malato di cuore che ha costantemente bisogno di farmaci salvavita. A 3 mesi dal sequestro di nostro padre Giuseppe Soffiantini, interrompiamo solo per questa occasione il silenzio stampa per effettuare il seguente comunicato. Ci rivolgiamo ai rapitori, anche perché questo lungo periodo vissuto al di fuori di ogni controllo medico può aver determinato delle complicanze di vario genere. Raccomandiamo quindi la somministrazione dei seguenti farmaci. Sintrom, da assumere con periodica effettuazione del test di Quick e dell'esame emocromo. Il silenzio stampa imposto dai magistrati viene periodicamente interrotto dai comunicati della famiglia assistita dal noto penalista Giuseppe Frigo. La famiglia di Giuseppe Soffiantini non ha ancora oggi altro mezzo per comunicare con coloro che lo detengono se non servirsi della radio, della televisione e dei giornali. E ha deciso che d'ora in poi lo farà solo attraverso la mia persona. Dopo quanto è accaduto, si è determinata una situazione nuova e anche più preoccupante. Per questo la famiglia Soffiantini rivolge innanzitutto un appello ai carcerieri di Giuseppe Soffiantini perché si rendano conto di ciò e si determinino ad una rapida e felice conclusione. Gli inquirenti intanto circoscrivono alla Toscana le ricerche della base operativa dei sequestratori. I carcerieri sentono il fiato sul collo e spostano il covo da Montalcino nel Senese a Calvana in provincia di Prato. Il 17 ottobre 1997 viene deciso il blitz che finirà in tragedia. A Rio Freddo, durante una sparatoria con i rapitori, viene ucciso l'agente dei Nox, Samuele Donatoni. si era sostituito a un emissario dei Soffiantini incaricato di consegnare il riscatto. Due giorni dopo la svolta viene arrestato uno dei rapitori, Agostino Mastio, che comincia a collaborare. Il 20 ottobre sull'autostrada Roma-L'Aquila, i Nox ne bloccano altri quattro, fra loro Mario Moro, ferito, morirà il 13 gennaio 98. Il 27 ottobre si scoprirà solo due anni dopo, nel racconto in prima persona dello stesso Soffiantini, l'imprenditore tenta la fuga ma viene poi rintracciato dai carcerieri. Ecco cosa scrive nel libro Il mio sequestro. 27 ottobre, data memorabile, è il mattino della mia personalissima anarchica fuga. È un fatto sconosciuto a tutti, non l'ho mai raccontato a nessuno. L'avevo rimosso, collocato a riposo chissà in quale parte dell'inconscio. È uscito prepotente e all'improvviso, ed è giusto che si conosca nei minimi particolari. Sono sfuggito ai miei carcerieri, ho eluso la loro sorveglianza, per quasi un'ora li ho lasciati alle spalle. È accaduto il 27 ottobre. Di mattina mi portano pane, formaggio e lardo. Fedeltà al menù. Mi alzo per mingere e dovrei farlo sul pagliericcio dove dormo. Non resisto questa volta. È inammissibile, anche in questo stato. Reclamo con i carcerieri. Non si fidano, mi legano e si allontanano. La catena, per la prima volta, non è chiusa con un lucchetto, ma si ferma con un cappio alla pianta. La pianta, in verità, è un alberello, né debole né robusto. È abbastanza alto, ma dai due metri in poi si biforca. Si tratta di un legno molto simile al frassino. Non è certo una quercia. Quel cappio non è magnifico. Con qualche pazienza si può allentare. Il cuore incomincia a battermi all'impazzata. L'adrenalina ormai è orientata sulla fuga. Il cervello deve pensare al cappio, innalzare le risposte al pericolo, rallentare le emozioni e accelerare i gesti. Ci sono tutti gli ingredienti per rimanerci secchi prima di essere riusciti a liberarsi e a muovere due passi in libertà. Allento il cappio, porto le mani legate alla biforcazione, spezzo il ramo più debole, spezzo anche il secondo ramo e lo sfilo via. Mi trovo libero. Libero dal cappio e dalle catene, ma prigioniero dei posti. La tachicardia, lo do per scontato, andrà avanti finché vorrà. Adesso devo scappare, raggiungere qualcuno che mi aiuti, ormai sono in fuga. Se mi scoprono, è finita. Il rifugio rimediato, la stanchezza dei carcerieri, la scoperta di quel cappio debole, il coraggio incosciente, più forte dei primi giorni di prigionia, e sono inaspettatamente in fuga. Ho pensato spesso di scappare, ma non ho mai programmato un piano di fuga. Sono a un punto di non ritorno. Il 19 novembre viene inviato alla famiglia un lembo d'orecchio con un ultimatum per il pagamento del riscatto. Il 25 gennaio 1998 un secondo analogo macabro invio, questa volta al direttore del TG5 Enrico Mentana. Un messaggio, un plico assolutamente inatteso, al cui interno c'era un testo drammatico, vergato direttamente da Soffiantini e soprattutto insieme a quella lettera c'era qualcosa che sembrava a prima vista un chewing gum già utilizzato. Era in realtà un lembo dell'orecchio. Era evidentemente un momento che nessuno avrebbe mai pensato di vivere nella realtà. Sono nei racconti sui rapimenti. I rapimenti di una volta si poteva pensare che ci fosse un passaggio di questo tipo. Trovarmi davanti la prova che Soffiantini era in vita, il suo grido d'allarme e d'accusa e anche, purtroppo, quel lembo d'orecchio, si può immaginare cosa sia stato. Sono giorni in cui, in mezzo a trattative incostanti, si teme per la vita dell'ostaggio. Il 9 febbraio arriva la notizia che tutti aspettano. Giuseppe Soffiantini è stato liberato a Impruneta, vicino Firenze. La famiglia ha pagato un riscatto di 5 miliardi in dollari. L'arrivo a casa nelle parole del sequestrato. Una folla attende davanti alla nostra abitazione, con paesani, giornalisti, curiosi e amici di tanti paesi. È incredibile, alle 3 di mattina. Non ce la faccio a scendere dall'auto, saluto dal finestrino. È un tripudio. Ora sì, ci riesco. Ancora più che a Firenze, bacio e sono baciato. Entro e lì, in mezzo al giardino, ferma, attende mia madre. Ha quasi 90 anni, una roccia. Non posso stringerla, altrimenti non riuscirei ad ascoltare il benvenuto. Sapevo che saresti tornato. Nel nostro dialetto, alla certezza delle cose che debbono accadere, scritte sulla pietra degli antichi testamenti, Adele le ha ceduto l'abbraccio della famiglia. Adele ora ha le mani libere, ne stringo i polsi. Ai polsi ha provato i primi patimenti del rapimento. Un filo di ferro ha legato le sue carni e le nostre pene. Si spezza nel nostro giardino e ci unisce di nuovo. Fa freddo, entra o ti prendi un raffreddore. Adele ha sempre una riserva di raffinatezze ai confini del dramma. Dispone la tela delle sue protezioni tiepide, da signora d'altri tempi. Rischia il freddo degli altri per queste sue temperature. Come stanotte, quando parla del pericolo di un raffreddore e non sa ancora che durante il sequestro il mio fisico lo ha abolito dal vocabolario. Dentro è festa. Conosco sulla mia pelle le fatiche dell'arrampicante. Io, autoproclamatomi botanico a vita, non sapevo della fatica dell'edera nel tenere attaccati nipoti, amici, capitani e ispettori. Tra poco, dopo la pausa, Giallo e Nero prosegue il racconto sul sequestro di Giuseppe Soffiantini. Giallo e Nero, di Daniele Biacchessi. Marco Mariconda, allora capo della squadra mobile di Brescia, ripercorre al microfono di Maria Luisa Pezzali il momento più tragico delle indagini sul sequestro di Giuseppe Soffiantini. La morte di Don Antonio, che tutti ricordiamo con grandissimo dolore sempre, è stato naturalmente un motivo principale e parallelo alla liberazione dell'ostaggio, che ci ha dato ulteriore energia, perché sapevamo di avere un motivo in più per risolvere bene il sequestro. Quando è stato ammazzato Donatoni, noi eravamo tutti abbastanza preoccupati, anche per la gestione dell'ostaggio, perché la morte di un ispettore di polizia comporta confusione nei rapitori, in chi come Farina e Cubeddu gestivano direttamente l'ostaggio. Questo ci faceva molta paura per la vita dell'ostaggio. Poi ci sono stati ulteriori contatti con i rapitori che lasciavano intendere che le trattative erano aperte e che non volevano nessun intermediario, e volevano trattare direttamente solo con i familiari. Per cui naturalmente questo, ferme restando le perplessità nostre, però ci lasciava intendere che Soffiantini fosse ancora in vita e quindi sulla falsariga di queste trattative poi si è arrivati alla liberazione dell'ostaggio. Così Marco Mariconda accoglie Giuseppe Soffiantini appena liberato. La prenderei a schiaffi perché ci ha fatto lavorare tanto. Le indagini sul sequestro di Giuseppe Soffiantini sono frutto di una straordinaria attività investigativa, compiuta ai massimi livelli, come ricorda Marco Mariconda. Io racconto spesso questo periodo in questi termini, dico sempre che con il collega Mazza, attualmente questore, ci alternavamo, io dormivo dalle 5 alle 7 del pomeriggio in ufficio sul divano e con i telefoni che squillavano, e quindi le ore di sonno perse sono state tante, però ecco, la stanchezza non la sentivamo perché avevamo l'energia dell'indagine, la passione dell'indagine e un apparato investigativo che ci entusiasmava e ci faceva dimenticare ogni forma di stanchezza. Eravamo probabilmente tutta l'Italia, anche perché c'era questo aspetto mediatico del sequestro, tutta l'Italia era diventata una grossa famiglia di cui noi forse rappresentavamo la frangia più importante, perché gestivamo le indagini, era una grossa famiglia che cercava questa persona, che voleva fortemente che tornasse a casa e che grazie a Dio oggi è a casa sua. Con Soffiantini finalmente libero, gli inquirenti possono stringere il cerchio intorno ai sequestratori. L'obiettivo è rintracciare i due carcerieri, di cui si sa già tutto. Sono due nomi storici dell'Anonima, gli autori di altri sequestri, Giovanni Farina e Attilio Cubeddu. Sparire nel nulla è una loro specialità. È il denaro segnato del riscatto, la pista principe. Il 19 marzo 1998, in Veneto, vengono arrestate quattro persone per tentato riciclaggio di banconote provenienti da quei 5 miliardi in dollari. Intanto si apre una pagina secondaria legata al sequestro. A Roma viene arrestato per concussione il generale dei carabinieri Francesco Delfino. aveva millantato contatti utili per la liberazione dell'imprenditore con i familiari di Soffiantini, dai quali aveva ricevuto 1 miliardo di lire, soldi utilizzati per fini personali. L'alto ufficiale verrà poi condannato in via definitiva a 3 anni e 4 mesi per truffa aggravata. Il 21 settembre 1998 si apprende dell'arresto a Ferragosto in Australia di Giovanni Farina. Rolex al polso, passaporto falsificato con il nome di Luigi Valiante, Farina viene bloccato alla dogana dell'aeroporto di Sydney per denaro in eccesso non dichiarato. 150 milioni di lire, in dollari e franchi svizzeri, nascosti nella valigia. Di qui la denuncia e i controlli che porteranno al suo riconoscimento. Farina però verrà estradato in Italia solo 1 anno e mezzo più tardi, il 25 maggio del 2000. Nessuna traccia invece di Attilio Cubetto. Attilio Cubeddu, 59 anni, è la primula rossa dell'anonima sarda. Figura nella lista dei primi 10 latitanti più pericolosi, inserito nel programma speciale di ricerca della polizia criminale. Nato ad Arzana, nel Nuorese, oltre che in quello di Giuseppe Soffiantini, risulta coinvolto in diversi sequestri di persona: Cristina Peruzzi, Patrizia Bauer e Ludovica Rangoni Machiavelli, per i quali in precedenza era già stato condannato a 30 anni di carcere. Cubeddu è irreperibile dal 7 febbraio 1997, pochi mesi prima del sequestro Soffiantini, quando uscì dal carcere Badue Carrus di Nuoro grazie ad un permesso premio. Dal 18 marzo 1998 le sue ricerche sono state estese in campo internazionale. Intanto, davanti alla Corte d'Assise di Roma, inizia il processo per il sequestro e l'omicidio di Samuele Donatoni. 18 gli imputati, ai quali in seguito si aggiungeranno altri 3 per riciclaggio di parte del riscatto. La posizione di Farina, non ancora estradato, viene stralciata. I primi 9 imputati vengono giudicati con rito abbreviato, 8 condanne e 1 assoluzione. A Pietro Raimondi, di Manerbio, bassista della banda, vengono inflitti 13 anni e 4 mesi, ad Agostino Mastio, il pentito del gruppo, 7 anni e 4 mesi. Il 12 aprile 2000 arrivano le condanne del troncone principale, tutte già definitive. Ergastolo al latitante Attilio Cubeddu, 25 anni a Osvaldo Broccoli e a Giorgio Sergio, pene comprese tra i 2 e i 3 anni, per altri 3 imputati minori, accusati di favoreggiamento e riciclaggio. Giuseppe Soffiantini commenta così la prima sentenza. Io veramente non considererei soddisfatto o insoddisfatto, perché, come ho già detto più volte, ho preso le distanze io da questi fatti. Il discorso personale è stato quello del perdono, anche per liberare me stesso definitivamente del sequestro. Non si può immaginare di vivere nell'odio, nel rancore, nel risentimento e pensare di dormire tranquilli, come fortunatamente io faccio. Quindi il perdono è un discorso personale. La giustizia è la giustizia sociale che deve fare il proprio corso. Io non ho preso le distanze e quindi non vorrei neanche commentare questo fatto. E si hanno avuto le prove e ho fatto una condanna. Un mese dopo l'Australia concede l'estradizione di Giovanni Farina, ma solo per l'imputazione di sequestro di persona, non per quella di omicidio dell'ispettore Donatoni. Il processo che prende il via a Roma si concluderà il 29 marzo 2001 con la condanna a 28 anni e 6 mesi di reclusione. L'imputato, che ha sempre negato di essere uno degli autori del sequestro, invia alla Corte un memoriale nel quale si definisce un perseguitato dalla giustizia per le sue origini sarde. Ma i colpi di scena nella storia del sequestro di Giuseppe Soffiantini non sono finiti. Dopo 3 sentenze passate in giudicato, A 8 anni dalla morte dell'ispettore dei Knox, Samuele Donatoni, il 14 dicembre 2005, la Quarta Corte d'Assise di Roma mette nero su bianco un'altra verità. A causare la morte dell'agente scelto a Rio Freddo fu il fuoco amico e non un proiettile sparato dal Kalashnikov del bandito Mario Moro. Lo stabilisce l'ultima perizia disposta, quella affidata agli esperti balistici Geraldo Capannesi, Antonio D'Arienzo e Stefano Moriani, secondo la quale Donatoni fu raggiunto da un colpo di pistola calibro 9 Parabellum, arma in dotazione alle forze di polizia. La nuova perizia sulla morte di Samuele Donatoni farà dire a Giuseppe Soffiantini che la responsabilità resta comunque dei sequestratori. È una piaga che non si chiude mai. Sono ormai passati 8 anni e ancora siamo qui a mettere il dito, come si dice, nella piaga. Il mio pensiero va soprattutto ai genitori, al fratello, ai familiari di Samuele Donatoni, che naturalmente, come continuamente, riaprire una pagina dolorosissima. E poi va anche a quel poliziotto che ha avuto la sfortuna di quel trambusto in mare, di notte, al buio, i boschi, eccetera, di sparare quel terribile, quel colpo che poi si è vero è quello che ha costato la vita all'ispettore di nostri 1000 donatori. Speriamo che comunque la chiarezza, credo, non faccia male a nessuno. E certamente non si potrà incolpare nessuno, perché se non i banditi, no? Che hanno provocato il motivo di questa sparatoria. Giallo e nero. Un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.